Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Se qualcuno dovesse chiedermi chi sono le donne più belle della storia per me, io vi risponderei Jane Birkin, vi risponderei Françoise Hardy, Charlotte Rampling del Portiere di Notte, ma in questa lista includerei sicuramente la protagonista di questa puntata. Con grandi occhi, con le sue ciglia truccatissime, è diventata una delle prime top model del mondo, è un'icona di stile, è stata definita il volto degli anni 60 nel periodo della swing in London, e molti non sanno che lei è stata una stella destinata a brillare nel firmamento non solo della moda, ma in tutto il mondo dello show business. Stiamo parlando della biondissima e bellissima Twiggy. All'anagrafe, lei si chiama Leslie Hornby, nasce il 19 settembre del 49 a Nisden, che è un piccolo, povero sobborgo a nord di Londra. È la più giovane di tre sorelle. I grew up. All my life we lived in London. Per tutta la vita abbiamo vissuto a Londra. Sono cresciuta a Nisden, un sobborgo a nord-est di Londra. Non avevamo molti soldi, ma avevamo una macchina e la televisione. Avevo mia madre e mio padre e le mie sorelle. Mio padre era brillante. Gli ero molto affezionata. Questo non significa che non amassi anche mia madre, ma lei era molto, molto più complicata. Lei aveva dei problemi con i suoi nervi, non le piaceva parlare del passato. È magra, androgina, seni piccolissimi, due occhi grandi da cerbiatto. Quando vive, una delle sorelle la invita a lavorare nel negozio di parrucchiere dove lavora già lei. Lei, Leslie, ci va volentieri. È giovane, è un'adolescente vispa, ha la faccia da monella, avere qualche soldo in tasca le fa comodo. Così solo al sabato, quando non c'è scuola, inizia a lavorare come sciampista nel bel quartiere di West End. Prende 2 sterline più le mance, è felicissima, finalmente può comprarsi i vestiti, gli accessori che vede nelle vetrine dei negozi, soprattutto nel negozio Bieber in Abingdon Road, vestiti che lei non si sarebbe potuta mai permettere. Prima compra delle ciglia finte con il consiglio di una collega, poi, quando ha un bel gruzzolo, si regala la prima gioia. Ho risparmiato per settimane per potermi comprare un paio di scarpe di pelle color verde bottiglia alle gallerie Lafayette, e se mio padre l'avesse saputo mi avrebbe ucciso. Quando ho visto il prezzo stavo quasi per morire. 49 sterline le ho comprate, ma a mio padre ho dovuto dire che ne erano costate solo 3. Oddio, scarpe di pelle, speriamo che gli animalisti non sussultino, ma comunque è il colpo d'ala, arriva molto in fretta nella sua vita. Marzo del 65, lei ha 15 anni, alta 1,67, pesa 43 kg e non è certo formosa come le dive di Hollywood. È sabato, sta lavorando nel salone, al primo piano ci sono i parrucchieri da donna, al piano terra i barbieri per uomini. Sembra un sabato come tanti altri. Nel salone entra un bel ragazzo di 25 anni, si chiama Justin de Villeneuve, e il fratello di Justin fa il barbiere, è arrivato a prenderlo alla fine del turno, ma appena entra viene folgorato da una ragazzina magra dai lunghi capelli sulle spalle. Perché sei così magra? Le chiede scherzosamente mentre scambia 2 battute con questa adolescente più giovane di lui. Capisce immediatamente che quella biondina così esile e androgena ha qualcosa più delle altre, un fascino magnetico. Justin è un tipo strano, fa 1000 lavoretti, è molto flessibile. In quei mesi sta collaborando con un architetto specializzato in interior design, ma una cosa l'ha imparata: la prima impressione è fondamentale. Sa che con lei potrebbe svoltare anche la sua vita. Quando sono andato a prendere mio fratello Tony, l'ho incontrata. C'era questa ragazzina così magra e bella da togliere il fiato. Aveva questi enormi occhi blu e una voce terribile, mai sentita prima. Sembrava un pappagallo gracchiante e questa cosa mi aveva preoccupato. Avrebbe potuto innervosire la gente con quella voce. Invece poi scoprì che era un suo punto di forza e comunque lei non era consapevole del suo strano modo di parlare. Mi ricordo anche di averle detto: «Hai bisogno di un megafono per parlare?» E lei mi rispose: «Cosa?» Non sapeva nemmeno cosa fosse. il falco e il gabbiano. Quell'incontro cambia la vita per sempre a lei, che non ha ancora 16 anni, ma anche a Justin. Durante una pausa pranzo, Justin le racconta che ha un amico che fa il fotografo, che sta cercando modelle per qualche lavoretto. Si mettono d'accordo per una domenica mattina, vanno a prenderla, e per lei è un sogno che si avvera. Due ragazzi affascinanti, molto più grandi, che la fanno salire su un'auto sportiva, la portano in un appartamento in piena Londra. Appena la immortalano con la macchina fotografica, Justin è certo, quegli scatti saranno i primi di una folgorante carriera. Non si sbagliava. Intanto tra i due ragazzi c'è del tenero, ma lei ha 15 anni, 10 anni in meno di Justin, che non prova neanche a baciarla. La va a prendere a scuola, la porta in qualche negozio. I genitori naturalmente sono dubbiosi, le dicono che è troppo vecchio per lei, le vietano di vederlo, ma loro si incontrano lo stesso appena dietro l'angolo di casa. Non sanno che Justin si comporta bene, non la sfiora per mesi neppure con un dito. È stato Tony e non Justin a chiamarmi Twiggy, e non c'entra nulla il fatto che abbia cambiato il nome con questioni pubblicitarie, come molti credono ancora oggi. Tutto è cominciato perché Tony aveva iniziato a chiamarmi Styx, perché avevo le gambe come due bastoncini, ma poi lo ha storpiato in Twigs e qualcuno un giorno ha fatto diventare Twigs Twiggy, e quello è diventato il mio nome quando stavo con Justin. A scuola e a casa io per tutti ero Leslie. O less. Naturalmente i compagni di classe cominciano a non destare il minimo interesse in Twiggy, smette di vederli, non esce con loro per andare a ballare, perché lei frequenta gli amici di Justin nei weekend, durante l'estate, ragazzi sui 20 anni, affascinanti, ricchi, con stile. E quando una delle sorelle si sposa nell'ottobre del 65, Justin va al matrimonio portandosi dietro lei. Insomma, volente o nolente, la famiglia accetta la sua presenza, diventa il suo fidanzato. Lei, che già non ama andare a scuola, inizia a pensare di lasciarla definitivamente. Stare a contatto con i ragazzini della sua età la fa tornare indietro di 100 anni, racconta lei. Alla fine del 65 vuole lasciare gli studi, vuole iscriversi a una scuola di moda. Nel tempo libero si cuce i vestiti, immagina già di avere una piccola boutique dove vendere le sue creazioni. È proprio Justin a far conoscere la sua princess, la sua principessa, la chiama così, ai suoi amici che lavorano nella moda, e proprio uno di loro viene colpito dalla sua faccia, una faccia nuova. La presenta la fashion editor della sua rivista, la Woman's Mirror, e viene approvata. Lui aveva una macchina, cosa piuttosto insolita al tempo, e così abbiamo iniziato a frequentarci, ed è iniziato tutto attraverso una sua amica che lavorava presso un magazine chiamato Women's Mirror. E io ho consentito perché secondo lei doveva vedermi la editor. Così sono andata a conoscere questa editor, che mi disse: sei molto piccola, non sono sicura che potresti essere una modella, ma hai un viso interessante. Perché mi truccavo già gli occhi, non avevamo i make-up artist al tempo. Non per la scuola, ovviamente, ma nei weekend mi truccavo e mi ci volevano 3 ore. Avevo 3 paia di ciglia finte sugli occhi e le truccavo anche sotto gli occhi. E poi sono diventate tipiche di Twiggy. In effetti lei è fuori dai canoni, è magrissima, molti abiti non le staranno bene addosso, ma quel qualcosa in più. E così le offrono un primo contratto, 9 sterline alla settimana per poche ore di lavoro. In questo modo avrebbe potuto dedicarsi anche alla creazione di suoi abiti. Justin l'avrebbe aiutata a venderli. Ma c'è un altro uomo che compare all'improvviso nella vita di questa scolaretta, che le consente di prendere il volo. È il parrucchiere più famoso a quei tempi, Leonard. La Women's Mirror, la rivista nella quale lei aveva iniziato a lavorare, organizza l'appuntamento tra Twiggy e Leonard per fare delle foto. Leonard propone al fotografo di fare un drastico cambiamento nel look di Twiggy, tagliarle i suoi lunghi e biondi capelli e farli cortissimi e platinati. E mentre Twiggy, con i capelli alla maschietta, e nello studio del fotografo Barry Lattigan, insieme a Justin, inizia a mangiarsi le unghie, e Justin la vede. Non farlo, Twiggs, non mangiarti le unghie. Scusa, Justin, come l'hai chiamata? Non si chiama Leslie? Sì, ma io la chiamo Twiggs. Che gran nome, Twiggy. Se entri in questo mondo in modo professionale, potresti farti chiamare sempre Twiggy. E ora per tutti, lei è proprio Twiggy, ha un collo nudo e lungo, capelli corti, occhi enormi da Bambi. Quando una fashion editor del Daily Express vede alcuni scatti nel salone di Leona, gli chiede i contatti di quella ragazza e la sua carriera è pronta a decollare. Scatta altre foto e sui giornali compare il suo volto. We thought it would be a little column, you know. Pensavamo che sarebbe stata una piccola rubrica. E mio padre improvvisamente entrò in casa molto emozionato e mi disse: Leslie, guarda! Aprì il giornale e c'era Twiggy, la faccia del 66. E quel giorno di febbraio del 1966 la mia vita è cambiata per sempre. 66, my life changed forever. Eh sì, il Daily Express la consacra volto del 66. Intanto per tutta Londra, per tutta l'Inghilterra, le ragazze tagliano i capelli alla maschiaccio come lei, truccano gli occhi con una riga di matita nera e lunghe applicazioni di ciglia finte. È fatta. Il falco e il gabbiano. E così Leslie Ormi, che ormai si chiama Twiggy, con i suoi grandi occhi, con le ciglia truccatissime, è diventata una delle prime top model del mondo. È diventata un'icona di stile, il volto degli anni 60 nel periodo della swing in London. È stata scoperta per caso mentre faceva la champista in un salone di bellezza e per 4 anni sarà la modella di copertina delle riviste di tutto il mondo. Ma restiamo dove l'abbiamo lasciata, febbraio 66, quando compare in copertina con un taglio alla maschiaccio e due grandi occhi da cerbiatto. 3 settimane dopo l'uscita del Daily Express, lei lascia la scuola, è pronta a lavorare per 100 sterline alla settimana. È un bel salto per una sedicenne. A questo punto è Justin a capire che per la sua Twiggy è il momento di entrare in una vera e propria agenzia. Le consiglia di proporsi con un book di fotografie, ma quando lei prova a parlarne a casa il padre non ne vuole sapere. Andare in giro per Londra a 16 anni facendosi fotografare da sola. Mai. Così Justin, che ormai è stato accettato in famiglia, e si propone di farle da manager, di accompagnarla negli studi fotografici. Solo allora i genitori acconsentono, non possono neanche lontanamente immaginare che di lì a poche settimane la loro figlioletta diventerà celebre a livello internazionale. Sì, perché è lei il volto nuovo che la swing in London degli anni 60 attendeva, e adesso tutto inizia a correre. È Justin che la fa uscire di casa, sempre ben vestita, con un trucco molto forte sugli occhi, ciglia finte, tanta matita nera sopra e sotto, e quel make-up diventa parte della sua personalità, la lancia nell'Olimpo delle dee. In una Londra è molto swing, ricca di minigonne inguinali, colori sgargianti, voglia di ballare le canzoni dei Beatles, e scoppia il fenomeno Twiggy. Con la sua costituzione sottile, con gli occhi un po' tristi, dallo sguardo drammatico, con un taglio di capelli riconoscibilissimo, Twiggy cattura lo spirito delle swinging 60s in giro per Carnaby Street a Londra. Così ben presto appare sulla copertina di molte riviste di moda famose, tra cui Elle e Vogue. Per lei è tutto nuovo, la chiamano, chiedono le sue taglie, organizzano sessioni fotografiche a cui non è abituata, ma non dice mai di no. Le foto vengono scattate anche a Parigi. In poco tempo Twiggy diventa una top model ricercata in tutto il mondo. La chiamano anche negli Stati Uniti, così nel 67 eccola in volo verso New York, e lì sono già decine i reporter che l'attendono all'aeroporto insieme al suo fidanzato e manager Justin. A royal reception for Britain's top mini model, whose professional name is Twiggy, real name Leslie Hornby. The 17-year-old Cockney girl is accompanied by her boyfriend manager Justin de Villeneuve, who fielded most of the reporters' questions. A New York posa per modella per Vogue America, incontra Woody Allen, ma è lei quella famosa dei due in quel momento. Cerca di promuovere una sua linea di abbigliamento. Si trova di fronte a un mostro sacro come il fotografo Richard Avedon, e anche qui è molto popolare, tanto che Bert Stern realizza 3 brevi documentari su di lei per la ABC. Sentiamo anche Kane Russell, il regista con cui lei lavorerà più tardi. My wife at the time, mia moglie al tempo stava sfogliando Vogue e disse: ehi, dai un'occhiata a questa modella, è speciale. Ed eccola lì, c'era questo tipo unico che adornava le pagine di Vogue e ho pensato che fosse davvero speciale. She is special. In 5 anni Twiggy raggiunge una celebrità inimmaginabile e Mary Quant decide di affidare alla sua immagine il lancio della minigonna. Diventando maggiorenne, intanto amplia i suoi orizzonti, appare in pubblico come attrice e cantante e decide per il ritiro dal mondo delle modelle. I'm very bored with it. Sono piuttosto stufa, voglio dire, ho fatto la modella per 4 anni e ho fatto foto meravigliose con grandi fotografi. Volevo davvero lavorare con grandi fotografi e credo che non ci sia altro che possa fare. Se detesto qualcosa, me lo si legge in faccia e sarebbe terribile fare foto e sembrare davvero annoiata di farlo. E così viene alzato il tiro, le ambizioni diventano maggiori, si lancia nel mondo dello spettacolo. Non ha mai studiato recitazione, ma convince Ken Russell che la scrittura per il suo film Il Boyfriend del 71. È una grande lavoratrice, però si fa amare e rispettare sul set anche dal coprotagonista, l'attore Robert Powell. Boyfriend è un film musical diretto proprio da Ken Russell, l'enigmatico regista, e lei parlerà così di Ken Russell in un documentario sulla sua vita. Ho conosciuto Ken Russell piuttosto presto e siamo diventati amici. E tutti i venerdì sera dava una festa a casa sua a Londra. Si vedevano dei film e mi sembrava una meravigliosa educazione. Film a cui non avrei mai pensato, come Metropolis e molti film europei, Alessandro il Grande e La corazzata Potemkin. Per la sua interpretazione di Polly nel film di Ken Russell del 71, Twiggy riceve un Golden Globe. Poco dopo questa prima esperienza, la coppia Twiggy-Justin si rompe. Lei rimane in America, prosegue la carriera nella recitazione. Non si può essere un appendiabiti tutta la vita, esclamerà. Insomma, le strade si dividono. Justin Villeneuve, che negli anni è stato pugile, parrucchiere, poeta, fotografo e manager, procede per la sua strada, ma senza di lei. 4 anni di carriera da modella finiscono, ma oggi Twiggy è consapevole che la sua carriera ha avuto più a che fare con quella famosa foto di lei con le ciglia finte e dipinte sul Daily Express sotto il titolo Il volto del 66, che con tutti i suoi sforzi degli anni successivi, dove comunque ha fatto l'attrice e la cantante. Nel 1973 il mondo del rock la conosce ancora meglio perché la sua foto appare sulla copertina dell'album Pin Ups. È l'album di David Bowie, il primo album di cover, un album nel quale Bowie rifà grandi canzoni rock degli anni 60, album che entra nella classifica inglese all'inizio del novembre del 73 e vi rimane per 21 settimane. E Twiggy debutta alla televisione inglese nel gennaio 74 allo show Silla. La sua performance le permetterà di avere un'allettante offerta da parte della BBC che le propone una serie TV dove duetta con grandi cantanti che andrà in onda per 2 anni. Sentiamola al debutto. Ladies and gentlemen, here she is, the fabulous Twiggy. As you listen to the band, don't you get a bubble. As you listen to them play, don't you get a glow. Nel novembre 76 c'è un altro imprimatur importante. Compare a The Muppet Show, canta in My Life dei Beatles, si fa conoscere anche negli Stati Uniti come cantante. Intanto nella sua vita privata arriverà un altro uomo, l'attore Michael Whitney, che sposerà nel 77. Avranno una figlia, Carly, prima della morte del marito nell'83. Per lei arriva un cameo nel mitico film The Blues Brothers dell'80 con Belushi, poi recita al fianco di Robin Williams nella commedia Club Paradise e in Madame Suzatska con Shirley MacLaine, e apparizioni in vari film per il cinema. Insomma, lei riesce a godere di un buon successo e anche sul palcoscenico dei teatri, tanto che nell'83 fa il suo debutto a Broadway nel My One and Only con Tommy Tune. Ladies and gentlemen, in the television premiere of one of the show-stopping numbers from my one and only, the toast of Broadway, Twiggy and Tommy Toon. Dalla fine degli anni Ottanta in poi, per l'ex top model seguiranno altri ruoli, altri film, apparizioni in TV. Nel frattempo, nell'88 sposa l'attore Leigh Lawson, diventa un personaggio televisivo a tutto tondo, perché si occupa naturalmente di moda e di spettacolo, ma sostiene anche i diritti degli animali. Si è sempre esposta in prima linea per sostenere la ricerca sul cancro al seno, e poi è testimonial di prodotti di bellezza, e poi giudice in un talent show di grande successo dedicato al mondo delle modelle, American Next Top Model. Our last judge is someone that is a fashion icon. She is one of the top three most profound, most influential fashion models on this earth. Ladies, I bring you Twiggy! Ed ecco cosa dice di lei l'autrice del programma, nonché uno dei volti noti dello show, la modella Tyra Banks, la prima donna di colore a apparire sulle copertine di GQ Sports Illustrated. Usually when somebody is iconic, di solito quando qualcuno è definita una vera e propria icona, dice: oh cara, come stai? E lei invece diceva: sono solo una mamma, solo una mamma. È solo una donna normale con una storia straordinaria. An amazing history. Una carriera incredibile, nata un sabato come un altro in un salone di bellezza, ma siccome il successo poi bisogna meritarselo, la carriera di Twiggy è stata un susseguirsi di colpi d'ala. Ci sono storie anche sconosciute di persone che nella loro vita hanno saputo darlo quel colpo d'ala, anche quando magari il destino ti riporta verso il basso, e poi si riesce a fare qualcosa che lascia il segno. Storie di chi è riuscito e di chi ha avuto cadute e risalite. Se volete mandare dei commenti o segnalarci altre vite, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina su radio24.it, venite a trovarci nei nostri social, Facebook, Twitter e anche nei miei, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani.